I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Italian Podcast Network presenta Fatality. Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Lunedì 16 febbraio 2015, bentornati a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica. www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Dietrologia Videoludica lo trovate su Facebook e Google Plus, stessa cosa, lo trovate anche su iTunes. Dietrologiavideoludica@gmail.com è il nostro la nostra posta elettronica. C'è anche il canale YouTube dove ogni tanto stiamo rimettendo cose, ovviamente non come le facevamo una volta. Con me a farmi compagnia in questo involucro di Dietrologia Videoludica che ci si appropizia a fare un piccolo speciale, una piccola intervista, reduci dallo specialone che abbiamo fatto sui Spaghetti Games, che è durata un'infinità e mezza. Abbiamo Marco Gualdi. Buonasera, infatti questa serata la puntata durerà un po' meno del solito, e quindi arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti. Così compensiamo le prossime settimane. Esatto. No, in realtà la puntata dura normale, così come il nuovo format. Normale, insomma, ci si concilia. Però, insomma, prima di entrare nel vivo della trasmissione, così come vi abbiamo detto, di questa intervista che abbiamo fatto insieme a Giuseppe Saso, andiamo, insomma, alle prime rubriche. Partirei subito. Primo avvio. Amici del Proibito e di Dietrologia Videoludica, ciao a tutti, sono Stefano e in questo primo avvio vi parlo di Fat Princess Piece of Cake. Fat Princess Piece of Cake è un gioco uscito da pochissimo su PlayStation Vita, un free to play, ma anche su mobile, Android, iOS, chi più ne ha più ne metta. Che cos'è questo simpatico giochillo? Questo simpatico giochillo è il seguito di Fat Princess e Basta, che era un gioco strategico per PlayStation 3, ma in seguito anche per PSP, sotto il nome di Fat Princess Fistful of Cake, ed è un gioco appunto strategico dove l'obiettivo è quello di far ingrassare il più possibile la suddetta principessa, nonché arrivare alla fine dei livelli, questo nella versione originaria, dove insomma bisognava riuscire a liberarla, nutrirla e così via. Questa nuova versione cambia per tutta una serie di cose che vado qui a elencare, come ad esempio in primis il fatto che è un free to play, quindi ve lo potete scaricare a gratis senza aggiungerci un soldo, e in più e cambia anche come tipologia di gioco, nel senso che è diventato un clone di Bejeweled, Candy Crush e tutto quell'altro filone lì, con delle possibilità di rendere ovviamente la cosa molto più strategica rispetto a quanto poteva essere il gioco di base, diciamo. Quindi determinate gemme che vengono eliminate a gruppi di tre vi daranno la possibilità di poter attaccare ad esempio con il granatiere, con l'arciere, col guerriero, e altre gemme vi permetteranno di dar da mangiare alla principessa, facendo in modo che questa possa essere utilizzata come bonus per gli attacchi. Altre gemme invece vi daranno ancora delle altre gemme, quindi dei diamanti che possono essere utilizzati per potenziare le truppe. Oltre a questo si possono acquistare tramite dei gettoni d'oro che sono ottenuti superando i livelli, superando determinate sfide che vengono appunto poste avanti come stile appunto Candy Crush ad esempio, o Bejeweled. Quindi livello per livello bisogna completare determinate cose in un certo numero di turni, oppure facendo un certo numero di danni, in modo da ottenere il maggior numero di bonus. In questo caso appunto la strategicità consiste nel usare le determinate gemme, determinate combinazioni, quindi nel momento giusto, in modo da ottenere un numero maggiore di bonus, di attacchi, di danni e così via, insomma massimizzare il tutto. Il gioco in sé appunto non presenta quindi niente di estremamente nuovo, ricorda, io ho fatto caso al fatto che da poco, durante Nintendo Direct, sono stati presentati dei giochi di Pokémon e di Mario che presentano queste identiche sputate caratteristiche, né più né meno. Quindi forse, insomma, in generale anche i gruppi, le distribuzioni più grosse si stanno interessando a questo tipo di, tra virgolette, puzzle game strategici, forse si potrebbero definire, che rimangono comunque molto interessanti, molto... Sono dei giochi che danno sicuramente molta dipendenza, e per utilizzare, per ripetere o fare i livelli bisogna utilizzare dell'energia, questa energia viene ricaricata col tempo oppure con i famigerati acquisti online o microtransazioni. Questo permette quindi di spenderci una barca di soldi senza che uno se ne renda conto, anche perché certi livelli per essere fatti devono essere ripetuti diverse volte, perché spesso non c'è la combinazione giusta, oppure bisogna comprare un determinato bonus che ti aiuti, se no non sono quasi superabili e così via. Questo quindi porta sicuramente i problemi legati al freemium, pur offrendo comunque un tipo di gioco che non ti obbliga a pagare per vincere, quindi non è un pay per win, bisogna solo avere un po' di pazienza nel riuscire a completare tutte quelle che sono le varie missioni, ripetendole, aspettando. Alla fine i tempi di attesa sono tra i 10 e i 15 minuti più o meno per ogni punto di energia, e questi punti di energia ti permettono di giocare una volta quel livello o rigiocarlo in certi casi. Quindi comunque, insomma, per un gioco gratuito secondo me è interessante, ed è uno dei pochi freemium che si trovano appunto su console moderne, in questo caso PlayStation Vita, assieme ad Invoker ad esempio, che è un altro gioco su un altro genere di cui magari parlerò più in là. Appunto è una tipologia che ancora forse non viene completamente esplorata nelle console, ma più nei mobile o nei giochi per PC, ma che comunque può risultare interessante se è ben costruita. Io questo gioco quindi appunto lo consiglio a tutti gli appassionati di Bejeweled Puzzle Quest, se volete una versione molto semplificata di Puzzle Quest e Candy Crush, per una cosa insomma che vi faccia perdere, non lo so, 5-10 minuti del vostro tempo in maniera tutto sommato comunque divertente, senza scadere nel troppo banale in questo caso. Un saluto e ciao a tutti, ciao ciao ciao. Mo al primo che mi dice che rompo il cazzo perché gioco a Candy Crush, gli sputo in faccia. Ma quello non è Candy Crush. Ma è molto simile, però Candy Crush con poi dopo bombe, spari, coppie e spari. Diciamo che gli hanno messo un franchise che è quello là di Fat Princess, che viene dal mondo dei videogiochi tradizionali, roba del genere, però è un Candy Crush. Candy Crush è strategico in tempo reale. Ma anche Candy Crush è strategico a modo suo. No, quello è più culo a tempo reale. Ma pure lì il culo, lo so, però lì devi capire, devi fare. È diverso. E invece ti dirò che io apprezzo, bravo Stefano, perché dai dignità. Il coraggio di giocare alla vita. Esatto. Non alla vita reale, alla vita PSP. Esatto. Chissà però se se li compra. No. Secondo me non è il tipo. Si compra. Aspetta i 30 minuti. Aspetta che 30 minuti. Che sei 30 minuti? No, perché sai che con i giochi di questo tipo, quando tu finisci, le vite, le vite. Esatto, bravo. Okay. Devi aspettare dopo. E certo. Ti è piaciuto questo gioco? Tanto, ci giocherò tantissimo, mi comprerò una PS Vita apposta per giocarlo, ho già messo da parte i soldi. Quanto costa una PS Vita? Ma no, lui l'ha giocato su PS Vita, ma in realtà c'è, penso, anche per Android. Allora metterò da parte i soldi per comprarmi Android. Non servono i soldi. Quindi... Android sì, però ce l'hai già Android. Ah, perfetto, quindi non servono i soldi. Devi scaricarlo. Perfetto, allora lo scaricherò. Puoi farlo anche adesso se adesso vuoi. Adesso lo scarico. Lo scarichi? No. E a questo punto io sente il rumore dello scarico? Sì, sì, che bello. Se vuoi lo aggiungi il rumore dello scarico. A questo punto entriamo nel vivo della trasmissione. Grazie comunque Stefano Biggio, insomma, per il tuo preziosissimo contributo. Entriamo nel vivo della trasmissione, dove abbiamo intervistato per la prima volta su dietrologia videoludica, ma sempre grazie a Giuseppe Saso, che è attentissimo a queste cose, un team di sviluppatori italiani, non vi annuncio niente, insomma, in fondo dà il titolo alla trasmissione, il gioco, e quindi lo abbiamo provato, abbiamo giocato la demo ed era giusto che facessimo questa intervista, quindi entriamo in... Osservatorio dietroludico. Ed eccoci dunque alla parte centrale di dietrologia videoludica, in questa puntata speciale completamente dedicata ad un progetto che cercheremo, insomma, di presentarvi nel migliore dei modi, per una ragione, anzi per diverse ragioni specifiche abbiamo cercato di fare questo speciale, ma prima di entrare proprio nel vivo con me a farmi compagnia e a fare questa lunga speriamo, insomma, appassionante intervista, c'è il nostro opinionista videoludico Giuseppe Saso. Salve a tutti. Ciao Giuseppe, come vanno le cose? Stai carico stasera, mi raccomando. Sì, abbastanza, poi sono gonfio d'orgoglio, cioè il petto gonfio d'orgoglio, perché comunque l'ospite che presenteremo oggi è un mio compaesano, quindi insomma, anzi in realtà appunto, tutto lo studio di sviluppo di fatto sta a Palermo, quindi non posso più che essere felice appunto di averlo con noi ospite per questo osservatorio, vediamo se lo dico giusto, dietrologico. Dietroludico, sì, hai ragione. No, ma anch'io ho sbagliato prima, quindi non fa niente. Vabbè, direi che allora, noi diamo le rubriche alla trasmissione per poi sbagliarle. Allora, faccio una piccola nota di merito a Giuseppe, perché Giuseppe, come sapete, sull'occhio del Beholder, che è la sua trasmissione sui giochi di ruolo, ha un occhio molto attento allo sviluppo indie, soprattutto italiano, e mantenendo la sua tradizione, l'occhio molto attento, è andato a scovare anche un nuovo progetto che adesso giustamente ci introduci, così introduciamo anche il nostro ospite. Perfetto, allora io vi introduco il nostro terzetto, è composto da Ruggero Aricò di Wiseful Studio, in particolare lui è il lead designer di questo gruppo appunto siciliano, palermitano, che ha tuttora in fase di sviluppo un gioco indie ovviamente, che è Walking the Glares, vediamo se l'ho pronunciato giusto, confermi Ruggero? Innanzitutto salve a tutti, Waking the Glares, sì, diciamo, okay. Il gioco è quello. Beh, Ruggero intanto ciao e benvenuto chiaramente a Dietrologia Videoludica, e grazie poi del tempo che ci metti a disposizione, perché comunque parlare di progetti italiani, insomma, a noi ci fa sempre molto molto molto piacere, abbiamo avuto modo poi insomma di sbirciare molto attentamente anche la demo, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, pensare una cosa incredibile per noi. Allora Giuseppe, Ruggero, prima di tutto presentaci il tuo studio, il ruolo nello studio ovviamente l'ha detto Giuseppe adesso, e magari parlaci anche un po' di te, dici magari qual è il tuo background, da dove nasce poi questa cosa di fondare lo studio e ovviamente sì, poi anche un progetto. Certo, Wiseful Studio possiamo dire che nasce in maniera più effettiva anche proprio in quanto Wiseful Studio nel novembre del 2013, e ci sono state tutta una serie di eventi casuali che ci hanno portato anche un po' a conoscerci, nel senso che qualche mese prima di cominciare a creare Waking the Glares non ci conoscevamo esattamente tutti del gruppo che adesso siamo e che lavoriamo insieme quindi da più di un anno. E tutto nasce dall'uscita degli Oculus, del primo kit degli Oculus, e quello ci ha portato, per ragioni naturalmente che partono dalla passione per i videogiochi, a pensare: ma perché non dobbiamo fare qualcosa di nostro? È naturale, penso sia il sogno un po' di tanti tanti tanti videogiocatori, quello di fare qualcosa in proprio, e i tempi oggi dobbiamo dire lo permettono in maniera molto più gli strumenti sono più accessibili rispetto a anche soltanto 10 anni fa. E forse il fatto di provare la realtà virtuale, non so, ci ha fatto, ci ha entusiasmato, ecco, penso si possa partire da questo. E così abbiamo creato il team e devo dire che da subito abbiamo avuto tutti la sensazione di stare sulla stessa linea d'onda, cioè cercare di fare un prodotto nostro sapendo che partivamo da zero, ma sapendo anche che di fronte avevamo tante potenzialità e tante cose da poter fare. Per quanto riguarda il team in sé, noi siamo quattro. Ci sono io, appunto, Ruggero, che sono il lead designer, come avete detto. C'è Marco, che è il nostro 2D, 3D artist. E poi c'è Vittorio, che anche lui è 3D artist e soprattutto è lead programmer. E lui ha avuto molta esperienza nel mondo dei videogiochi e ne ha anche pubblicati in quanto indipendente. E poi c'è Gabriele, che oltre a lavorare sulla grafica si occupa di game design. Noi facciamo, diciamo così, tutto in casa. Il Wake in the Girls sarà tutta farina del nostro sacco: musica, storia, grafica, ovviamente, concept e via dicendo. E inoltre abbiamo anche un collaboratore che è Giulio, anche lui palermitano, anche se da qualche anno vive a Dublino, che si occuperà del comparto audio. Questo è un po'. Ottimo. Allora, visto che già in parte lo hai anche anticipato con la fondazione dello studio, io a questo punto ti chiedo, ovviamente, Waking the Glares, come è nato l'idea di sviluppare questo gioco? Appunto, oltre all'entusiasmo, alla passione, avevate pure in mente, penso di sì, comunque l'idea di, insomma, fare soldi, e soprattutto la cosa che vi chiedo è, si tratta del vostro primo tentativo oppure c'era già prima qualcosa, non solo giochi finiti ma anche prototipi di altre idee che poi magari potrebbero anche essersi trasformate in questo progetto? No, noi abbiamo cominciato a lavorare immediatamente su Wake in the Glares. Addirittura la prima volta che ci siamo incontrati quelli che poi saremmo diventati questo studio, io ho subito sottoposto l'idea, il concept base del gioco, che mi è venuto dal nulla. Cioè, non è che so spiegare, sì, ho visto un tale film che mi ha ispirato, semplicemente. Ok, ho avuto un'idea e ho cominciato a scrivere, e dal primo incontro, quando ancora non esisteva questo studio, insomma, l'ho sottoposto, anche credo ci sia servito a creare il gruppo, no? Avere una qualcosa su cui un'identità. Sì, sì, questo sicuramente ci ha aiutato, e quindi da allora ci siamo dedicati soltanto a Wake in the Glares. E bisogna considerare che per me Gabriele e Marco è la prima esperienza nello sviluppo di un videogioco, quindi comunque sì, ok, ci lavoriamo da un anno e mezzo, però bisogna considerare il fatto che del tempo ci è servito proprio a trovare l'identità di gruppo e l'organizzazione in quanto gruppo di lavoro, perché poi questo è un lavoro. Voi avete fatto riferimento ai soldi dal punto di vista ovviamente del discorso lavorare, no? Sì, esatto. Rendere questa passione, quello che ci guida, è tutto un lavoro, qualcosa che insomma ci faccia vivere, ok. Però ecco, penso che Wake in the Glares abbia avuto, al di là di quello che diventerà, come noi speriamo, qualcosa che abbia una sua qualità e tutto, ha avuto questo merito di essere presente subito insieme a noi e darci la possibilità di strutturare il gruppo anche sulla scorta di quanto stavamo sviluppando e di quello che pian piano diventava Wake in the Glares. Io ho detto, no, il fatto che l'idea di base, il concept è venuto a me, ma poi è stato bello poterlo discutere e poterlo arricchire di tutti i contributi che anche gli altri ragazzi hanno dato, e per questo adesso è un nostro progetto, al di là del discorso l'origine. Una mattina mi sono svegliato e ho cominciato a scrivere, però possiamo fare nel modo più romanzesco che vogliamo, ma in realtà poi il gioco si fa insieme, esatto, in tutti i suoi aspetti, ecco. Bene, allora, anche se poi in realtà già hai dato degli spunti, però entriamo un po' più nel vivo rispetto proprio al gioco, quindi come è nata l'idea del gioco in sé, cioè nel senso quando hai iniziato poi a scrivere il concept, quindi magari gli abbozzi di sceneggiatura, e soprattutto, ecco, tu prima magari hai detto che potrebbe anche essere un aspetto poco rilevante, però in realtà ci sono sono stati comunque dei progetti ai quali probabilmente vi siete ispirati, no? Quando avete pensato o quando hai pensato all'idea in sé. Diciamo che chi è che, scusa se mi intrometto Simone, vai, chi vai. È che lo prova, la prima cosa che pensa come ispirazione magari può essere di Arester, no? Insomma, questi giochi qua, sì, diciamo anche delle questi giochi di esplorazione, esatto, dove la narrazione poi si sviluppa ovviamente con... Guardate, io in realtà quando ho cominciato a buttare giù, no, le prime righe proprio sul game design, ecco, del gioco e sul concept e tutto, io pensavo alle avventure grafiche che io avevo giocato quando ero più un ragazzino, un po' di anni fa, e via dicendo. Considerate che io, quando scusa che ti interrompo, tipo? Così tanto per citare. Avventure grafiche, cioè quelle storiche, The Dig, tutta la saga di Monkey Island. No, okay. Quelle classiche, Lucas, perfetto. Il classico. Considerate che io, quando sono e quando abbiamo cominciato, arrivavo da un periodo molto lungo di quasi un anno nel quale ero stato distante dal mondo dei videogiochi, anche se no, sembra un po' strano quasi, in realtà poi e c'erano tutta una serie di cose che dovevo recuperare, ok, in quanto appassionato, anche perché quando ho cominciato a parlare gli altri ragazzi, sapete, tale idea, loro mi hanno detto: ah sì, ma l'hai giocato di Rester, ma l'hai provato con Home? E io sì, li ho sentiti nominare, però ancora non li avevo provati. Dopodiché il fatto di avere visto che effettivamente quell'idea, no, di quel tipo di gioco era stato ovviamente sperimentato da alcuni, nei risultati che conosciamo, poi ovviamente ognuno può avere i propri gusti, io penso che siano entrambe delle ottime produzioni davvero di grande ispirazione, e che quindi mi sono ritrovato a studiare insieme agli altri, cioè ad analizzare, a capire: ah ecco, noi vogliamo suscitare tale tipo di sensazione, emozione. Come hanno fatto in Direster? Perché la prima volta te lo giochi in quanto giocatore, no? Sì. Ne sei affascinato e tutto. La seconda volta lo cominci a analizzare, cerchi di capire come è stato gestito il suono. Fai, diciamo, un po' di reverse engineering, no? Sì, esattamente. Perché comunque a un certo punto abbiamo dovuto per forza cominciare a ragionare da sviluppatore, e quindi da persone che appunto fanno il reverse engineering, prendono i prodotti degli altri e li cominciano a scomporre, a cercare li di smontano, capire come dico, questa è la base di quell'alchimia, che poi quando giochi a Direster non pensi: ah, questo è il suono, questo è quello che vedo, questa è la sensazione che ho, ma è un insieme, ecco. E quindi cerca di capire come possiamo noi creare, ovviamente con la storia che è nostra, che è diversa da entrambe, diciamo, sia Direster che Gnome, e via dicendo, ecco. Ok, allora, vabbè, ora diciamo addentriamoci ancora un po' di più nel gioco. Sì. Ovviamente c'è un protagonista che di fatto noi non vediamo, perché siamo noi, essendo un gioco in prima persona, però in realtà ha un'identità ben precisa questo personaggio. E anche un nome molto particolare, che è appunto Dawnfall, diciamo il calare del tramonto, no? E questo suo viaggio che fa, insomma, è abbastanza, diciamo, onirico, oserei dire, no? Quindi io ti chiedo innanzitutto, appunto, il nome di questo personaggio ha un significato o, insomma, sì, l'avete scelto così? E soprattutto... No, ma in realtà abbiamo dovuto molto riflettere, perché noi che da questo lato, no, abbiamo tutta la storia, ok? Sì. E abbiamo dovuto, abbiamo riflettuto un po' su quello che poteva essere un nome appunto adatto al protagonista. Poi è chiaro, insomma, sto parlando dell'oppio in questo caso. Sì. E diciamo che, ok, c'è il fatto che alla base delle vicissitudini di Dawnfall c'è un libro, sarebbe giusto dire la scrittura di un libro, cioè il fatto stesso che questo libro esiste ha, diciamo, reso la vita di Dawnfall molto particolare. E quindi lo sai che, scusami ti interrompo, lo sai che sta cosa del libro, questa cosa mi ricorda, sì, anche te Simone, mi ricorda un po' Myst, no? Il fatto che tu entravi pure nell'isola attraverso il libro, no? Sì, ma perché per caso ti sei anche così, il Myst l'avevi giocato, ti è venuta questa, allora, cosa, cosa? Sicuramente sì, anche se in realtà non me ne sono reso conto, perché Myst è di tantissimi anni fa. È stata una di quelle cose che uno dice: ma sai che è bella questa cosa? Poi la metti, la sviluppi e via dicendo, a un certo punto magari in un altro momento e ti capita di vedere qualcuno che su internet dice ah che bello Mist, io so, pensi a Mist e dici ah vero, ma guarda ecco da dove mi era venuta quell'idea, per cui questo ovviamente perché accade? Perché in anni di passione una serie di concetti si sedimentano e poi quando ti ritrovi a fare il tuo prodotto, insomma gli ingredienti che hai sono quelli che hai accumulato, sì, negli anni, anche se magari non riesci a ricondurli in maniera diretta. Poi è così, ecco, l'esperienza che sia all'interno dei videogiochi, i film che hai visto, i libri che hai letto, i luoghi nei quali hai viaggiato e via dicendo, certo, ecco, contribuiscono tutti. Questo devo dire, è il lato tutta l'esperienza ti influenza in qualche maniera. Sì, sicuramente. E per quanto riguarda, comunque dicevamo del libro che eravamo rimasti. Sì, ecco, ecco, il discorso è questo. Il nome non è casuale perché ci sono dei concetti e una simbologia anche alla, sì, base del libro, e sono la luce e il buio, un po' questi dualismi, no? L'alba e il tramonto, e il sapere e il non sapere. E quindi ecco, Dawnfall nasce proprio da questo, perché abbiamo voluto creare questo gioco di parole, perché normalmente la parola inglese è Dawnfall, che sta per tramonto, ma sì, Dawn è alba, quindi abbiamo voluto, sì, fare una sorta di crasi, ok? E creare questo nome che rappresenta un po' questo cercare un equilibrio che ha questo personaggio tra il buio nel quale si trova, perché lui non sa, ecco, non sa perché stanno accadendo tutte quelle cose, e la luce, da qui poi anche il titolo, no? Che lui va cercando e che lo aiuta a mantenersi, ok, in equilibrio in quello che poi è un viaggio. Noi l'abbiamo descritto così, è il modo più semplice, penso, per descrivere il gioco, un viaggio. E quindi, scusami se ti interrompo, questa dicotomia, questo scontro di forze opposte è un po' tutto il leitmotiv, tutto quello attorno a cui girerà, insomma, il gioco, no? Sì, sì, nella, sì, storia, perfetto. E poi appunto, siccome avevo pure prima definito un viaggio pure io onirico, il fatto che ci sia anche, come appunto avevamo detto pure in The Rest, eccetera, una figura esterna, nel caso del vostro gioco, appunto delle voci che continuano a parlare a Dawnfall, ci puoi dire qualcosa ovviamente nel sì, limite del possibile. Sì, sì, io cerco di non spoilerare nulla, sì. Il fatto è questo, che Dawnfall viaggia, appunto, come ho detto, questo universo così frammentato, e la voce non è altro che il riverbero, potremmo dire, di questi luoghi che lui attraversa, che sono diversi tra loro, e che raccontano ognuno una propria storia. Ora, il punto qual è? Prima dicevi un viaggio onirico, un po' l'introspezione, il fatto è che io, almeno personalmente, credo che qualsiasi viaggio sia introspettivo, poi dipende naturalmente dai sensi del viaggiatore, ok? Da quanto è sensibile. Allora, Dawnfall, che si trova in questo buio, come abbiamo detto prima, e non sta cercando altro che qualcosa che gli possa suonare familiare, qualcosa che lui, come dire, alla quale possa dare un significato, anche se apparentemente non c'è. E soprattutto noi vogliamo creare un parallelismo tra il giocatore e il protagonista, nel senso che non ci sarà nulla che il protagonista saprà che il giocatore non saprà, non so se mi spiego. Ci sono determinati, sì, giochi nei quali, faccio un esempio, sì, prendi Metal Gear Solid 3, Snake Eater, sì, e tu non sai esattamente tutta la storia di quello che poi diventerà Big Boss, però lui sì. In questo caso invece noi vogliamo creare questo parallelismo, cioè Dawnfall non sa cosa gli sta succedendo e non sa il perché, e la stessa cosa vale per il giocatore, e lo scopriranno insieme. Ecco. Ovviamente tutto questo, appunto, come ben dici Ruggero, ha anche a beneficio dell'immersione, no? Sì, sì, sì, noi appunto tutto va a sposarsi con l'idea originale. Vedete, ecco perché abbiamo parlato di Oculus all'inizio, cioè noi ci siamo detti sì, ok, gli Oculus sono fantastici, aiutano tantissimo l'immersione, ma davvero vogliamo accontentarci di questo? Cioè è il device, è il mezzo che poi crea il senso di immersione, oppure vogliamo utilizzare, e qui mi ricollego a quello che dicevi di Rester, il suono, la storia, il tipo di narrazione, tutte le sensazioni per immergere il giocatore? Ecco, è questo, penso, quello che noi potremmo considerare la sfida principale per noi, ecco. Ok, in realtà vabbè, quello che è abbastanza evidente in questo progetto, così come tantissimi altri progetti indipendenti, è che a livello di concepimento il progetto è pensato per un pubblico internazionale, chiaramente, quindi sia il titolo che il gioco sono prevalentemente in inglese, anche il press book, insomma, che abbiamo avuto poi modo di vedere all'inizio, insomma, è comunque dedicato al pubblico inglese, ma noi magari per quelli che insomma non riescono ad agganciare il significato del titolo, ci possiamo dargli che tipo di interpretazione gli avete dato, perché il gioco si chiama così? E, come dicevo prima, c'è quel concetto, no, alla base, per cui il protagonista, però lo dico nella maniera più neutra possibile, no? Cercando di non fare grossi spoiler. Abbiamo un protagonista che non sa, come dicevo prima, cioè, secondo me questo è uno dei modi migliori, senza spoilerare, ma anche molto belli, per descrivere il protagonista, perché comunque dicendo è qualcuno che non sa, sembra di non dire nulla, ma in realtà già gli diamo una sua identità, ecco, e si ritrova in questo luogo, in questo buio. Da qui parte l'idea poi di parlare di Bless, cioè waking, cioè risvegliare, nel senso quello che dicevo prima, no? Tu viaggi e cerchi qualcosa che ti possa suonare familiare, che ti possa aiutare a orientarti in questo buio che è ciò che non conosci, solitamente in maniera piacevole, perché se io vado a fare un viaggio in India lo faccio proprio per vedere ciò a cui non sono abituato, e in questo buio Downfall incontra queste luci, cioè questi bagliori, i glares, appunto, che diventano qualcosa di preziosissimo, perché nel momento in cui lui non riconosce, ecco, nessuno dei luoghi nei quali si trova, quelle cose che anche minimamente gli possano suonare familiari, gli possano dire qualcosa che lui pensa di avere già sentito, diventano la cosa più preziosa che ha. Per questo la dicotomia più forte che noi potevamo trovare, più essenziale, era quella tra il buio e la luce, dove la luce appunto è un bagliore, e Wake appunto dà la sensazione che questo bagliore si possa fare qualcosa per renderlo un po' più acceso, ecco. Quindi questa è un po' la spiegazione che do al titolo, cercando di non spoilerare. No, direi che comunque è abbastanza illuminante, permettimi il gioco di parole, è anche esauriente, dai. È proprio il caso di dirlo. Sì. Dico, allora a questo punto passiamo, diciamo, sempre a una forma più appunto di composizione del gioco. Se ho capito bene, il gioco è suddiviso in 7 capitoli. Spero di non aver detto una castroneria. No. Però stiamo parlando comunque di capitoli che saranno tutti disponibili quando il gioco sarà rilasciato. Non stiamo parlando di una forma di distribuzione episodica, come che so, i giochi di Telltale, no? Oppure dei capitoli magari aggiuntivi che verranno poi in seguito rilasciati come DLC. Insomma, no. Prego. No, diciamo, il gioco è strutturato in capitoli, perché questo sta alla base, un po' è tra quelle righe che dicevo prima, che sono state tra le prime proprio a fondare il gioco. E, c'è anche un motivo proprio, non dico tecnico, però ecco, organizzativo del gioco, che è quello di poter fare così, poter ricreare ambienti molto diversi tra loro, e perché appunto la divisione in capitoli ci permette di raccontare una sottostoria per ognuno di questi luoghi nei quali Downfall andrà, appunto si avventurerà, e tutte storie che comunque si legano tra di loro, ecco, nel senso che chi ha giocato la demo ha visto appunto luoghi molto diversi tra loro, sia dal punto di vista strutturale, luoghi molto chiusi, luoghi molto aperti, dal punto di vista anche un po' dell'epoca, il giorno, la notte e via dicendo, ma che comunque sono legati tra loro. Questa è un'altra sfida dal punto di vista del concept, che sarà nostra responsabilità riuscire a rendere, cioè dare qualcosa al giocatore che mentre lo gioca dice ok, la storia di questo capitolo è stata molto interessante, ora vediamo com'è questa. Parte con una propria e dice ok, rispetto a quello di prima sembra essere un altro discorso, però finito il gioco dirà ah, ecco come si legava tutto. Allora noi, sì, vai, scusami. No, dicevo, c'è quel libro che ho citato prima, sì, che noi abbiamo, che sta anche quello, è un altro protagonista, che appunto è, dicevo, un libro che il fatto stesso che questo libro esista ha incasinato la vita di Downfall, e che noi abbiamo voluto rendere leggibile, nel senso che davvero è in fase di scrittura e che i giocatori potranno leggere per approfondire, come una specie, di codex in game, giusto? Un codice, proprio un libro, proprio, diciamo, una guida libro consultabile all'interno del gioco, no? Ma più che una guida è il fatto che il libro non racconta il gioco sotto forma di libro, ok? Ma diciamo si sposa insieme al videogioco. La nostra idea è che il giocatore appunto giochi tutto il gioco, sai, Waking the Glass, e finito il gioco dica: ah, ok, ma io ora voglio sapere che cosa c'era scritto in quel libro. Esatto. Ah, okay. Anche perché io che ho giocato la demo ho avuto questa sensazione, a parte ovviamente come succede spesso e volentieri con i personaggi in soggettiva, che non hanno, diciamo, il background, o tu come giocatore non conosci il background, e mi ha dato proprio la sensazione di essere un soggetto all'interno di un'ambientazione senza memoria alla ricerca di un qualcosa. Il concetto di ricerca è subito, quando tu trovi il libro in realtà ti trasporta più che ti racconta, no? Quindi c'è questa questione qua. Comunque va bene, poi dopo magari torniamo a parlare anche un po' del gameplay, scusa, sì. Giuseppe. No, figurati, io volevo solamente poi, diciamo, per chiudere questo punto, vabbè, chiederti quindi comunque in generale il fatto eventualmente di rilasciare anche episodi extra, quindi come DLC, non vi è mai passata per la mente? No, perché comunque quello che dicevo prima, il concept è così, ha bisogno di una tale coerenza di chiudersi, per cui non solo non c'è passato per la testa di fare una cosa un po' monca, no? E poi dare un altro episodio dopo, eccetera, ma soprattutto fare una cosa che in sé è autoconclusiva, e poi aggiungergli qualcosa per come è pensato il gioco è impossibile, nel senso che, ecco, si inizia, poi termina ed è un'esperienza completa che noi vogliamo dare, che deve essere per forza fatta in questo modo perché è la sua natura, e io quasi ne parlo come se fosse qualcosa che quasi che non abbiamo creato noi, no? Che l'abbiamo trovata in un campo, e dico è la sua natura, come se fosse un meteorite, ecco. Perché poi diventa così il rapporto col proprio prodotto, ok? è un altro elemento del gruppo, è il gioco. Era una bellissima visione. Però aspetta, tanto per, diciamo, chiudere, e quindi questa esperienza che hai detto, in media di questi 7 capitoli un giocatore quante ore più o meno richiederà per essere portato a compimento? Noi abbiamo stimato una durata di circa 5-6 ore per completare il gioco, ecco. Insomma, sì. neanche piccolo, insomma. Sì, tutto sommato è... sapete, una volta che noi comunque puntiamo molto alla questione della narrazione, la storia, che appunto sto cercando in tutti i modi di non spoilerare, e la divisione in 7 capitoli, comunque non potevamo fare qualcosa che durasse meno di questo tempo che vi ho indicato, perché certo, significava poi che ogni capitolo, come dicevo, ha anche un po' una sua sottostoria a sé, non avrebbe avuto il tempo di raccontarla, e questo insomma... Certo, va bene. Tu parli di coerenza narrativa, che è uno degli elementi più difficili e ambiziosi in un'epoca come questa, lo sappiamo bene, ma altrettanto ambizioso è l'idea che si nasconde dietro questi 7 capitoli, ossia praticamente 7 capitoli che rappresentano 7 ambientazioni sostanzialmente diverse fra loro, e ancora di più 7 ambientazioni diverse sostanzialmente diverse tra loro, con gameplay diversi tra loro, cioè nel senso che comunque ogni capitolo avrà un modo di approcciarsi, probabilmente, o anche introduce via via una meccanica diversa, diverse, esatto. Quindi anche se tu vorresti, e stai disperatamente tentando no, vabbè, di dire il meno possibile, e da una parte lo comprendo, cerchiamo magari di dare anche una spiegazione per cercare anche di entrare, no? Di farlo diventare meno oggetto misterioso e più affascinante. Qualche esempio analogo, dico, non esattamente di quello che... No, certo, cioè, non è che ci devi proprio... Chi giocherà troverà esattamente cose che possono ricordare questo o quella, vabbè, insomma... E diciamo che innanzitutto è giusto chiarire che il gameplay sarà sempre ascrivibile al genere dell'avventura in prima persona, quindi non è che capiterà che ci saranno platform action a qua, tre quarti di gioco il giocatore deve tirare granate, orde di nemico, gestire una un fabbrica, FPS, esatto, diventa Doom dopo alla fine. Sì. Però il fatto è che comunque il genere che noi chiamiamo avventure in prima persona dà spazio a molte sfumature di gameplay, e a noi comunque piace l'idea di un po' sperimentare su questo punto, ecco. E se faccio un esempio anche rispetto al fatto che la demo comunque abbiamo pubblicata, chi l'ha giocata o chi la vorrà giocare dopo potrà vedere un po' il tipo di ambientazioni. E se vi ritrovate nella Parigi della Belle Époque e siete coinvolti in un intrigo fatto di personaggi particolari, molto caratteristici, e allora l'esplorazione che sta alla base, me l'avete citato anche voi prima, dell'avventura in prima persona, chiederà un modo di giocare diverso rispetto a quello di, non so, un altro capitolo nel quale si interagisce molto con l'ambiente fisico. Magari nell'episodio Parigini invece diventa importante soprattutto osservare questi personaggi che sono presenti, ascoltare le loro conversazioni, vedere dove vanno, cosa fanno. Ecco, il punto è questo, cioè rendere coerente il gameplay con il contesto. E naturalmente se ci deve essere un capitolo, e ci sarà, nel quale è richiesta più non so, rapidità nella scelta, nell'orientarsi, anche nel correre e nello sfuggire a un nemico, non può essere quello ambientato a Parigi dove ci sono come dire, persone che passeggiano per strada e via dicendo. Ecco, e questa è la coerenza a cui facevo riferimento prima. Non so se posso fare un altro esempio, sempre nella demo c'è un'altra ambientazione che ha suggestionato molte persone, ed era quella nella quale il giocatore capisce di essere in quel momento un burattino di legno. Uh-huh. Ecco, anche qui non possiamo fare un gameplay che è troppo il fatto di passeggiare tranquillamente, guardarsi attorno, ok, che diciamo che è più adatto, si rifà di più a un'ambientazione nella quale c'è, come posso dire, quella che citavo prima, per esempio di Parigi, no? Un'ambientazione più calma, potremmo dire, che però ha qualcosa che va scoperto e che va più a fondo rispetto a ciò che si vede nell'immediato. Lì sei un burattino, ci sarà qualcosa che ti scuoterà, che ti farà dire aspetta, ma io voglio sapere di più, ma attenzione, io sono un burattino, cosa posso fare? Ecco, è questo questa è la varietà di gameplay che noi vogliamo indicare. Poi dopo, come avete detto voi, più di questo è difficile. No, vabbè, questo è abbastanza proprio per quello che ho detto, perché poi il gameplay si lega al luogo, e quindi ci sono determinati capitoli che hanno un gameplay comunque particolare, che però quasi non posso descrivere perché significherebbe quasi spoilerare, certo, la storia stessa. Senti, però spero di aver dato sia a voi che agli ascoltatori un po' un'idea di cosa intendiamo noi. Ma se non altro penso che hai inserito gli elementi di curiosità necessari, perché poi sai, quando una cosa rimane troppo oggetto misterioso è difficile che la gente, invece in questa maniera secondo me abbiamo già dato qualche elemento di stimolo sicuramente al seguire anche il progetto. Comunque questa idea della differenziazione, poi alla fine immagino anche tra di voi, anche a livello di concept, quindi non solo di sviluppo ma proprio di scrittura, è stata immagino una sfida abbastanza ardua. Sì, questo sicuramente. Poi come dicevo prima, c'è stata, no, quella cosa, le mie idee che sono state, diciamo, dei semi, no? Che poi abbiamo coltivato insieme, e quindi l'importante è stato all'inizio capire e riuscire a capire, cioè loro hanno avuto il problema di capire di che cosa stavo parlando, ok, se la posso mettere così, nel senso che quando hai un concept di base di un gioco, un concept di questo tipo come che è quello che vi sto descrivendo, quando hai al momento le idee in realtà sono molto grezze, per grezze intendo indefinite, fumose, magari hai l'idea e dentro di te pensi di avere capito che cosa vuoi fare, ma è difficile spiegarlo. E in realtà proprio grazie alle loro domande, che magari mi facevano capire che non mi stavo spiegando per niente, abbiamo potuto dare forma, no, a questo masso indefinito, e pian piano con lo scalpello lo si fa diventare Waking the Glass, ecco. E quindi, come hai giustamente detto, anche questi aspetti poi sul gameplay sono stati molto discussi, e per fortuna ci hanno trovato molto d'accordo tra di noi. Riusciamo comunque a trovare, non solo perché insomma poi viene spontaneo pensare, ah sì, in gruppo si trova il compromesso. In realtà è molto bello il fatto che ci sia una comunione di idee che poi stanno molto bene tra noi, ecco. Non è che bisogna rinunciare a una qualche idea perché un altro non è d'accordo. Non è sempre così, per fortuna, soprattutto in queste cose così, così importanti. Poi se qualcuno mi diceva facciamo che a Parigi tutto assieme spuntano i nazisti e devi sparare col bazooka, allora lì era più facile dire no, guarda, questa non la mettiamo. Anche va bene ci vediamo domani. anche perché in questo caso diventa Wolfenstein, no? Sì, esatto. Vabbè, direi comunque, appunto, visto, come ho detto, che questo gioco ce l'hai presentato, e spero che gli ascoltatori fin qua abbiano capito che insomma è stata un'esperienza abbastanza immersiva, profondamente legata al rapporto audiovisivo, all'esplorazione, come avevi detto poco fa, e all'attenzione appunto a ogni aspetto mediatico del gioco in sé. A questo punto faccio un po' l'avvocato del diavolo e ti chiedo, quindi Walking the Glass in che cosa si differenzia, secondo te, dagli altri giochi indipendenti della stessa tipologia? E soprattutto ti chiedo se secondo te non esiste appunto il rischio di inflazionare questo tipo di esperienza, insomma, perché tutti diciamo è un gioco indie, quindi è una cosa in prima persona, oppure c'ha la grafica tipo se un platform o comunque un gioco bidimensionale c'ha tutta la grafica retro 8 bit 16 bit, quello che è, insomma, secondo te? Ma secondo me c'è prima di tutto quello di cui appena parlato finora, è il fatto, come dicevo prima, che a noi piace molto questo discorso per cui la divisione in capitoli non è solo una questione di struttura, sì. Dà anche un ritmo al gioco, dà varietà, e appunto quello che abbiamo appena detto circa il gameplay. Dopodiché, per dare identità a Waking the Glass rispetto alle altre produzioni sempre indie dello stesso genere, ci sono la storia in sé, perché è totalmente originale, ok? Poi, come dicevamo prima, uno viene forgiato da tutti i film, i libri e i giochi che ha giocato. Comunque in quattro, se questa storia ci suonasse già vista, ce ne saremmo accorti, ok? Poi dico in quattro, in realtà poi c'è la ragazza che viene bombardata, no? Da tutta, ma tu che cosa ne pensi? Che cosa? Così, quindi insomma abbiamo cercato anche degli occhi esterni, ai quali abbiamo detto fin dall'inizio: scusa, ora io ti spoilerò tutto il discorso alla base, ma mi serve qualcuno che mi dice se questa cosa ha senso e se è originale, oppure se dici no, ma questa somiglia un sacco a un film che ho visto una volta, oppure no. E poi dal punto di vista narrativo, la sfida principale è quella questione della coerenza, che riguarda anche il mood dei luoghi e il mood generale del gioco. E poi c'è il discorso del libro che dicevo prima, anche quello è una sfida, nel senso che comunque sappiamo che lì ci giochiamo una carta importante, perché se magari facciamo il gioco che è bello, poi la gente incuriosita legge il libro e fa schifo, detto chiaro, anche se non sarà così, ok, per fare un esempio, e cioè anche lì ci esponiamo. Il discorso poi è sempre quello, no? Più cose metti in scena, più è possibile che fai un qualche errore o fai qualcosa che non convince del tutto. Sì, magari che quindi trovare no, quell'equilibrio tra le tue ambizioni e le tue capacità. Noi pensiamo di fare una cosa che, appunto, come dicevo prima, è molto nostra, molto originale, e che punta su quelle cose che ho elencato, e crediamo di non essere di non seguire un trend. Perché avete ragione quando mi chiedete anche il discorso: non esiste il rischio di inflazionare questo tipo di giochi? Ovviamente il rischio c'è sempre. Se noi pensiamo agli ultimi due anni nel mercato indie, a livello di horror è uscito tutto, ok? E il punto è questo: se noi ragionassimo del tipo, ah guarda, c'è questa cosa qui che sta avendo successo, questo tipo di giochi, e ci mettessimo lì, no, nella carreggiata come in autostrada per seguire anche noi il tutto, poi il tempo che il gioco si sviluppa, che viene tutto confezionato ed esce, magari ci ritroviamo in compagnia di altri 100 team che hanno avuto l'idea di seguire la stessa onda come noi. E quindi il punto è quello, cioè sì, ok, come dicevo all'inizio, giocare di Rester, giocare Gnome, giocare recentemente The Vanishing of Ethan Carter ci hanno fatto dire, ok, questo è, diciamo, il genere, potremmo dire, questo è un po', non so come lo potrei chiamare, insomma, il mezzo. Il trend, però, anche, no? Sì, anche un po' il trend, però dopodiché noi in questo, diciamo, nella cinepresa gli mettiamo la nostra pellicola. Certo, è certo, un po' questo l'atteggiamento. Sì. Perché anche se noi, qui concludo un po' per la risposta, guardiamo Gnome di Rester e The Vanishing of Ethan Carter, ma loro si somigliano così tanto tra di loro in realtà, se li guardiamo tutti e tre insieme, in realtà secondo me non si somigliano così tanto, però hanno quei punti in comune che le persone dicono, guarda, appartengono allo stesso sistema solare, diciamo. Beh, diciamo che di Arrester è un estremismo totale, perché lì non c'è quasi praticamente interazione, quindi vabbè, diciamo che volevamo dire una comunanza di linguaggio, ecco. Sì, e questo è sicuramente vero, dopodiché parlando lo stesso linguaggio ognuno mette la Divina Commedia o tre mezzo, ma ognuno mette la propria storia. Certo, chiaro. Va bene, da quello che hai anche detto all'inizio, insomma, quando abbiamo proprio alle primissime battute, voi siete dei sostenitori dell'Oculus Rift, tant'è che suppongo che anche questo dispositivo poi più o meno abbia forse ispirato il desiderio magari di sperimentare anche in funzione di, ma voi siete sostenitori realmente di questo dispositivo o semplicemente perché in qualche maniera, pensiero dietrologico, vedete un possibile sviluppo professionale, quindi praticamente lo specializzarvi voi come studio magari nel creare applicazioni dedicate a? Ma sono entrambe le cose. Poi, come dicevo all'inizio, noi partiamo dal fatto che da appassionati, no, ci siamo messi questi cosi in faccia. Sguardi, sì, anche io e Peppe ce li siamo messi in faccia, poi ce li siamo levati, però. Sì, quando ormai stavamo per vomitare e svenire, no? Sì, perché insomma, quella era una delle parti più memorabili, ok, dell'esperienza. E appunto sono entrambe le cose. E noi pensiamo che sia fantastico che finalmente la realtà virtuale sia reale, nel senso esistono gli Oculus Rift e ora tutti gli altri che stanno uscendo. E pensiamo che apra comunque dei nuovi scenari dal punto di vista professionale. Quindi le due cose, ecco, per noi sono legate. E poi è chiaro, naturalmente, come tutte le cose nuove, noi e tutti anche gli altri sviluppatori abbiamo tantissimo da imparare e non sappiamo quanto sarà ardua la sfida in realtà virtuale, cioè nel senso che non sappiamo se ok, va bene, ci sono gli Oculus, qua c'è tutto il sistema per creare i giochi per gli Oculus, ma proprio perché è un mondo nuovo non sappiamo se questo creerà delle sfide dal punto di vista tecnico che finora giustamente non esistevano perché non esistevano gli Oculus. Solo che insomma, se non sperimentiamo adesso che le cose stanno nascendo, allora quando? Diciamo, è un treno che dobbiamo prendere per forza, perché è bello sapere di vivere in un periodo nel quale le cose nascono e ogni giorno c'è una notizia nuova, qualcuno cambia il modo di pensare. Visto che appunto hai parlato di realtà virtuale, no, questa accoppiata di parole, no? Anzi, di parola con sostantivo e aggettivo, in realtà è una cosa che non è nuova negli ultimi anni al mondo videoludico, no? Io me lo ricordo dai tempi anche da quando eravamo ragazzini. Sì, esatto, anche ne parlavo, ti ricordi le riviste tipo K, quando fece quel fantastico pesce d'aprile con la sola, ti ricordi, la realtà reale, no? Comunque ovviamente anche il periodo del tagliaerbe e tutto, però appunto se tu non pensi che se queste tecnologie in realtà non hanno mai penetrato davvero il mercato e quindi non le stiamo ancora tuttora utilizzando, potrebbe esserci dietro un motivo, e soprattutto perché, appunto, visto che ci state pure voi sbattendo tanto oggi, perché appunto oggi questo scenario dovrebbe essere diverso da 10 anni fa. Esatto. Sì, io penso che vi siano due ragioni, diciamo. Allora, una è il fatto che adesso possiamo dire che adesso esiste la realtà virtuale come l'abbiamo sempre o quasi immaginata, nel senso che rispetto ai visori del passato davvero c'è tutto il discorso eye tracking, no, proprio il 3D che non è, che io mi ricordo quando dovevo spiegare gli Oculus ai miei genitori e dire ma guardate che non è il 3D degli occhialini, è 3D, poi si sono messi sulle montagne russe e hanno capito di che cosa stavo parlando, ok? E quindi questo comunque vomitando in tutta la stanza ovviamente quindi c'è una differenza a livello proprio tecnico, cioè quindi prima erano degli esperimenti splendidi, soprattutto se li vediamo al giorno d'oggi con un po' di nostalgia, quel gusto che c'è un po' quando vedi un'immagine dell'Amiga 500, allora diciamo sì, da, ecco. E poi l'altra questione è quella relativa ai contenuti, cioè al giorno d'oggi è molto più facile creare e condividere i contenuti, certo, rispetto rispetto a prima. Penso che questo sia importantissimo, siano essi contenuti nel senso videogiochi o applicazioni, sia anche contenuti, significa che se io creo nel mio laboratorio qualcosa, nessuno mi conosce, qualcosa di innovativo, particolare, metto un video su YouTube, mi faccio notare perché comunque è un brevetto assurdo e via dicendo, mi può notare molto facilmente un colosso tecnologico che sta nella Silicon, certo, Valley, mi manda una mail e il giorno dopo io sono lì a lavorare con loro e a vedere come implementare quello che io ho creato nel loro sistema. Prima penso ci fosse, voi avete detto se ne parla da tanti anni, però credo che oggi il linguaggio della tecnologia sia molto più come dire, comune rispetto a prima. Per esempio quando vediamo le immagini, i video delle fiere nei quali ci sono gli sviluppatori di Oculus e quelli di STEM, che sono quelli che vengono dall'esperimento Razor Hydra, che lavorano insieme per capire come sincronizzare al massimo gli Oculus e questo dispositivo, lo STEM. Ecco, io penso che questo sia un segno del fatto che oggi si può sperimentare molto di più, oggi sì, c'è molta più collaborazione tra imprese diverse, sì, che si occupano dello stesso settore ma magari con device diversi rispetto a prima, e quindi che i tempi sono maturi per parlare davvero di realtà virtuale, perché oggi sono gli Oculus, domani mi metto i guanti, no? Che tutti i tattili che gestiscono le mie mani dentro il mondo virtuale e poi chissà cosa. No, anche se poi nella sua sperimentazione in realtà è anche un po' inquietante. Noi abbiamo fatto in realtà una puntata proprio specifica qui, noi nella domanda, penso se Giuseppe è d'accordo con me, magari per approfondire un secondo poi andiamo oltre, in realtà così come il 3D nel cinema o magari i dispositivi di i controlli di movimento alternativi al joypad, roba del genere, cioè nel senso di sperimentazione ce ne sono tante e sono tutte meravigliose e fantastiche, però in realtà poi alla fine ci rendiamo conto che sono degli artifici eccessivi, no? Nel senso che per ora, fino adesso, non hanno funzionato. E la domanda in effetti hanno funzionato fino a un certo punto. Ecco. Fino a un certo punto, esatto. Quindi la domanda del perché ora dovrebbero funzionare è una domanda contestuale secondo me sensata. E la tua risposta, diciamo che bypassa determinati dubbi che noi abbiamo sempre avuto fino adesso. Quando io parlo della questione della condivisione e mi riferisco naturalmente in maniera implicita al fatto che oggi ci sono molte più intelligenze che lavorano sulla tecnologia rispetto a prima. Come dire, approcciarsi a cosa. Anche io lo citavo prima parlando del discorso dello sviluppo di Waking the Glass. Non è che 10 anni fa qualcuno mi diceva: ma tu lo sai che in futuro potresti lavorare su un gioco? Tu dicevo: sì, vabbè, bevi di meno e siediti qui all'angolo. Insomma, oggi molte più intelligenze per via di internet possono usufruire di informazioni che poi sono la conoscenza. E anche interagire fra loro. Quindi, interagire tra loro e contribuire alla discussione mondiale su creiamo il Matrix, perché no, poi sì, la fantasia ci spinge tutti là. No, speriamo anche no, comunque. Sì, no, ok, ovviamente era il massimo della realtà virtuale. E quindi ecco questo fondamentalmente. Bene, bene, bene. Allora, dato che siamo comunque sul tema tecnico, a questo punto ci rimaniamo, ritornando ovviamente però a parlare proprio nello specifico del gioco, perché parliamo ecco del motore grafico che avete utilizzato, visto e considerato che l'impressione è quello che sia la Real Engine 4 e se è corretto o meno, e se avete utilizzato qualche particolare tipo di tool di sviluppo, se avete costruito voi un framework sul quale lavorare ovviamente per la realizzazione di questo gioco. Sì, noi, sì, innanzitutto confermo la demo, e poi sarà Waking the Blurs, insomma la demo è stata sviluppata con la Real Engine 4 e Waking the Blurs verrà sviluppata appunto con il motore dell'Epic. Infatti diciamo cercando Waking the Blurs su Google può capitare di imbattersi in degli screen che uno dice ma è lo stesso gioco, che sono degli screen pre-alpha di quando lavoravamo con Unity 4, che è un ottimo strumento, uno strumento sul quale lavoravamo fin dall'inizio, anche perché Vittorio, il nostro lead programmer, aveva molta esperienza e ha ancora molta esperienza nel suo utilizzo. Tuttavia noi avevamo la sensazione di poter, come posso dire, di poter fare di meglio, no? Di poter valorizzare maggiormente il nostro lavoro. Non eravate soddisfatti, insomma, del volevate di più, ecco. Sì, ma comunque ci siamo detti, ragazzi, cosa ci costa provare, sperimentare, no? Sempre quello che dicevo prima, se non sperimentiamo adesso, quando? Un po' poi diventa, non dico un mantra, però diventa un modo di pensare. E così abbiamo dato una chance al motore dell'Epic. E siamo rimasti appunto sulla Real Engine 4, perché davvero ci ha non so, ci ha dato la sensazione di poter fare tantissimo, proprio quando uno guarda una cosa dice qua c'è il potenziale, o comunque o forse essendo uno strumento è al contrario, la Real Engine ci ha guardato e ha detto voi avete il potenziale, quindi usatevi, fate di me quello che vi serve. E noi abbiamo utilizzato appunto la Real Engine in quanto tale, quindi a proposito del discorso dei tools non abbiamo utilizzato niente di diverso da quello esterno, che è, okay. Sì, no niente da quello che è il motore dell'Epic appunto. Ok, allora dunque questo gioco, se ricordo bene, ha anche, come diciamo è ormai comune tradizione da un paio d'anni a questa parte, provato la strada del Kickstarter, no? Ed è proprio, quindi era approdato effettivamente su Kickstarter, con, chiedevate se non sbaglio, 30.000 euro di gold, però purtroppo si è chiuso appunto lo scorso 24 dicembre con soli 1529 dollari, quindi insomma non è riuscito a raggiungere l'effettivo goal e quindi non è stato finanziato. Io a questo punto innanzitutto ti chiedo, da realtà italiana come siete riusciti a farlo, anche perché se non sbaglio Kickstarter richiede comunque delle particolari sedi, e poi a che cosa ovviamente imputate il fallimento della campagna? Allora, innanzitutto per quanto riguarda il discorso realtà italiana, che naturalmente è stata una cosa che per molto tempo ci ha fatto dire ma come possiamo fare? Noi siamo stati fortunati perché quel ragazzo che citavo all'inizio quando descrivevo il team, Giulio, sì. Come ho detto, vive da che si occupa del comparto audio e vive da qualche anno a Dublino. L'Irlanda proprio ad ottobre diciamo ha fatto il passaggio, cioè il passaggio non so come si può chiamare, insomma da ottobre Kickstarter permette anche i progetti per chi è che ha sede a Dublino, quindi abbiamo avuto comunque questa fortuna di poter lanciare il progetto, perché altrimenti non avremmo potuto, o sarebbe stato di fuori la nostra possibilità fare sedi in altri paesi, no? Tutte queste cose macchinose. E dopodiché, per quanto riguarda il fallimento della campagna, ci sono varie cose da considerare. Naturalmente la base, proprio base è l'inesperienza, nel senso che abbiamo tantissime cose da imparare, cosa che rende molto bello il lavoro, no? Ogni giorno impari una cosa nuova e via dicendo. E d'altra parte, quando pensiamo a quel novembre 2013 che citavo prima, quando abbiamo cominciato, e adesso la differenza la vediamo nelle nostre capacità e nei risultati in ciò che possiamo produrre e via dicendo. E quindi c'è mia esperienza poi che si traduce anche in esperienza dal punto di vista del marketing, che comunque come dire, va curato e va soprattutto quando spesso in inglese usano la parola tailing, no? Proprio per dare la sensazione che va fatto su misura in base a ogni realtà. Dopodiché internet è fantastico per chi comincia, proprio perché trovi una marea di articoli che ti spiegano un po' soprattutto quello che non devi fare dal punto di vista del marketing. Però certo devo dire che dal punto di vista dei siti e della responsabilità dei siti è stato un po' demoralizzante, ma anche educativo forse, no? Avere poca responsabilità soprattutto a livello nazionale. Però anche questo fa parte del discorso dell'inesperienza, magari credere che sia più facile approcciare i siti che si occupano naturalmente di settore, non dico del sito della pesca, ok? O comunque le realtà più generaliste tipo Repubblica, sì. I quotidiani, no? No, vabbè, certo. Quelli totalmente off limits, non che non li abbiamo contattati, anzi proprio no, cioè, lì c'è stata tutta una cosa di ricerca, capire chi è il giornalista che in tale testata nazionale si occupa della rubrica tecnologia. Però insomma abbiamo anche in corso d'opera capito gli errori che stiamo facendo, quindi non è che ci mettiamo qua a fare i piangini a dire ah non ci hanno risposta. Infatti comunque alla fine il fatto di poter fare la campagna Kickstarter, anche se è fallita, è stata importantissima proprio, certo, per fare questo passaggio dal nostro garage, per modo di dire, no? L'immagine di noi che lavoriamo in un posto sperduto o comunque sconosciuto e andare insomma di fronte al mondo a dire ragazzi noi sappiamo fare questo, e capire come dirlo e come farlo sapere a più persone possibili. Quindi comunque tutto diventa esperienza, ancora il gioco lo dobbiamo finire, quindi non è una cosa del tipo ragazzi ma il vostro gioco è uscito 4 mesi fa e avete venduto 2 copie, come mai? Cioè abbiamo ancora del tempo di ampi margini. Sì, è proprio sulla sorta di questa esperienza noi possiamo prepararci meglio proprio per quando il gioco dovrà uscire. E poi infine c'è la questione Kickstarter, che comunque non va sottovalutata, per cui Kickstarter oggi non è più quello che era un anno e mezzo fa. No, quando questo no. Cominciato, c'erano determinati giochi belli, per carità, ok, progetti molto belli che noi siamo andati a rivedere proprio quando stavamo preparando il nostro, per capire guarda come hanno presentato bene questo, che hanno avuto finanziamenti che davvero altro che i nostri 30.000, ok? E questo comunque va considerato, è cambiato Kickstarter. Vabbè, sì, poi non è che avevate il blasone, che so, di Tim Schafer o insomma di qualcun altro, già noto, ma anche di qualche altro sviluppatore indipendente italiano che ovviamente c'ha magari l'appoggio delle riviste, quindi in qualche maniera. Insomma, cioè, facciamo anche della sana polemica, che fa sempre bene. Insomma. Sì, insomma, noi abbiamo capito che poi, come avete detto voi, noi abbiamo chiesto tot, abbiamo avuto davvero una percentuale ridicola di quel tot, quindi evidentemente il problema non è soltanto ma avreste voluto chiedere un po' di meno, ma in realtà anche quello che è stato dato non avrebbe avuto senso chiederlo, ecco, certo. Posso capire se voi se mi facciate la domanda tipo avete chiesto 30.000 ma mi avete dato i 29.000 e non avete preso niente, allora noi avremmo detto certo siamo stati un po' scemi, forse non essere meno pretenziosi, futuro sapremo come relazionarci con dal punto di vista del marketing e via dicendo. E poi come dicevo insomma è stata un'esperienza, si impara. Anche perché poi in realtà, a differenza di quello che è l'origine di Kickstarter, la gente arriva sulla piattaforma quando già insomma c'ha una base diciamo pronta o addirittura quasi finalizzata, gli serve più per una questione di promozione che per una questione di vero finanziamento. È diventato ormai così, perché noi, come dicevo prima, citavo quando noi avevamo cominciato, abbiamo detto guardate, ma certo c'è Kickstarter magari più avanti quando noi avremo qualcosa da mostrare, anche perché vedevamo dei rapporti tra campagna e tempi di uscita dei giochi e dicevamo guardate, ma questi fanno, cioè, dico comunque progetti che hanno avuto ottime e non diciamo di indie, ok, mi riferisco a progetti di questo tipo, poi il discorso di Tim Schafer è un altro, che però avevano tempi di uscita tipo un anno e mezzo rispetto alla campagna, e all'epoca sorprendeva anche noi. Poi abbiamo visto che tutto sommato questa cosa si vedeva spesso, e poi come giustamente detto oggi invece è molto promozione di qualcosa che è già una sua base, quindi in realtà ha un po' perso quello che era la sua missione iniziale Kickstarter, che certo, era quella del tipo non ti conosce nessuno, vieni qua, fai vedere cosa sai fare, la community, la sì, condivisione sì, sì. Oggi invece ci vuole proprio essere già conosciuti, e quello fa ancora più da cassa di risonanza. Avere il pedigree, no? Sì. No, no, vabbè, ma infatti di questa cosa ne parleremo in una delle puntate prossime di Ideologia Videoludica, proprio perché in realtà come e perché le piattaforme di raccolta fondi sono cambiate e perché la loro mission oramai non è più compatibile con l'idea originale rispetto ovviamente ai soggetti che ne hanno usufruito, ma questo purtroppo poi è un altro tema. Invece un tema che è molto caro di Ideologia Videoludica, che è quello del doppiaggio, dello speakeraggio, del doppiaggio. Noi sappiamo insomma che ovviamente il gioco viene pensato e prodotto per il mercato internazionale, quindi ovviamente il doppiaggio sarà probabilmente in inglese, ma voi pensate, sappiamo già quali possono essere i reali problemi, no? Perché ovviamente un progetto indipendente, affrontare il discorso del doppiaggio in italiano è una sfida probabilmente, però magari lo contemplate come idea, o volete provare magari a trovare vie alternative per avere un buon doppiaggio magari in italiano, oppure è una cosa che non avete minimamente considerato? Noi finora non, cioè anche diciamo nel momento adesso in cui stiamo parlando, non lo prevediamo il doppiaggio in lingua italiana, e come avete detto appunto in inglese, e noi abbiamo diciamo messo in programma proprio per l'uscita doppiaggio in inglese, sottotitoli in inglese, italiano e spagnolo, ma questo non significa, cioè, diciamo la fortuna di oggi col discorso digital delivery e robe varie è quella di poter lavorare sul proprio prodotto anche dopo, certo, e quindi certo, la nostra idea è stiamo mettendo tutto questo impegno sul gioco, stiamo facendo tutte quelle cose di cui ho parlato, concept, non è neanche il momento di pensarla questa cosa, sì, cioè, vabbè, possiamo ripensarla, comunque possiamo approcciarci alla cosa nell'ottica ragazzi vediamo comunque di qua a quando lo lanciamo se capiamo che è immediatamente fattibile, oppure se certo, comunque possiamo lavorarci subito dopo che abbiamo pubblicato, insomma cercare, sì per carità, di farla questa cosa, però capire quanto è fattibile e quando è fattibile. Vabbè, i tempi sono stretti, sì. Scusa Simone, ma che ne sai, poi magari entrano tra un mese, ovviamente lo sto dicendo così senza nulla di confermato, anche se ve lo auguro pure, che sto sotto l'ala di qualche mecenate tipo Sony, no, che per ora indie li sta aiutando molto, certo, e magari li finanzi, e così ce l'abbiamo pure doppiato su PlayStation, no, però se, in italiano, se lui vuole noi possiamo contattare Dario Argento, comunque sì, Dario è anche sua figlia, e anche la figlia che non c'entra niente, vabbè, intanto per sdrammatizzare sì, un po', va bene dai, vabbè, che siamo arrivati quasi alla fine insomma di questa sì, io, intervista Peppe. Sì, infatti ora mi tocca a Ruggero farti ovviamente sempre le solite domande di rito, che potrai anche decidere di utilizzare il diritto di restare in silenzio e non rispondere, o essere abbastanza fumoso, insomma, quando appunto allo stato attuale, appunto che il gioco è ancora al tutto in sviluppo da quello che ci ha confermato, quando prevedete di rilasciarlo, e soprattutto diteci un po' se potete dirci le specifiche tecniche per ovviamente la piattaforma PC soprattutto, e se sono anche previste altre piattaforme insomma. Sì, allora per ordine, allora prima di tutto la data, noi sì, abbiamo programmato il tutto, stiamo lavorando per rilasciare Waking the Girls per settembre di quest'anno, quindi settembre 2015, e naturalmente ci sono molte variabili in gioco, specialmente adesso che siamo, anche se è passato quasi un mese, insomma, post campagna Kickstarter fallito, ok? Quindi ci sono determinate cose che stiamo ristrutturando rispetto al nostro lavoro, però cerchiamo di ristrutturarle in modo da comunque farcela per tempo e senza tagliare nulla. Su questo voglio essere molto chiaro, nel senso che è del tutto legittima, è normale, e insomma la preoccupazione, possiamo chiamare così, di chi dice: ah sai, sembra carino, certo questi non gli ha dato bene il Kickstarter, magari adesso invece di 7 capitoli ce ne fanno 4 ed esce il gioco incompleto, ok? Naturalmente questa cosa non esiste, quindi ok, noi cerchiamo di farcela per settembre e di fare il gioco esattamente per come è stato pensato fin dall'inizio. E per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, penso che dovremmo risentirci, nel senso che ancora ci sono diverse cose sulle quali stiamo lavorando rispetto all'ottimizzazione, proprio per rendere il gioco il più possibile, come dire, giocabile. È rifinito soprattutto. Sì, a parte che è rifinito, nel senso che ci sono quei casi in cui uno dice: ah, ma come? Il computer della NASA mi scatta. Cioè, ok. Ma a parte questo, ma anche per renderlo giocabile a più persone possibili. Certo. Quindi avremo un'idea più chiara sui dei requisiti più in là, ecco. Certo. Anche perché creando e pubblicando la demo abbiamo potuto raccogliere molti feedback. E questo ci sta permettendo di lavorare meglio. Questo fa parte di quello che dicevo prima, l'esperienza di andare su Kickstarter, pubblicare la demo, andare su Steam, su Greenlight e vedere altri pareri. Insomma, serve tantissimo, ecco. Molto. Perfetto, allora Ruggero, se vuoi, hai comunque magari 3 minuti per dire cose magari sulle quali vorresti puntare l'attenzione e che magari non sono uscite fuori da queste domande che ti abbiamo fatto. Ricordiamo poi che tutte le informazioni relative al gioco, allo studio e anche al modo di poterlo poi supportare, so che il gioco sta attualmente in attesa. No, è già stato approvato su Greenlight. Su Greenlight, quindi insomma, volevo anche farti i miei complimenti per questo, mi fa piacere. Per di quest'altra tappa, no? Grazie, sì. Sì, appunto, abbiamo avuto molto brevemente, ecco, effettivamente questa forse è l'unica cosa da aggiungere, è questa che ci ha molto entusiasmato l'approvazione su Greenlight, anche perché è stata nello stesso periodo in cui c'era la campagna Kickstarter, quindi avevamo da un lato il discorso della campagna, dall'altro però Greenlight, nel quale arrivano tutti questi voti dell'utenza, tutti questi commenti favorevoli, e addirittura noi abbiamo la campagna Kickstarter è durata 30 giorni, noi abbiamo cominciato il Greenlight 5 giorni dopo aver cominciato la campagna Kickstarter, eppure siamo stati approvati appunto su Steam prima che la campagna finisse, perché sono stati 18 giorni per essere approvati, e questo per noi è la cosa che ci fa dire: ok, continuiamo a non essere nessuno, continuiamo a non avere ancora pubblicato il gioco, quindi non è che ci adagiamo sugli allori, però pensiamo di essere sulla buona strada. Ecco, questo è il segnale che ci ha dato. Insomma, tiene accesa la speranza, no? Sì, comunque ci fa dire: guardate, effettivamente quello che stiamo facendo ha convinto un po' di persone, compreso lo staff di Steam che ha sempre l'ultima parola. Questo, insomma, è chiaro. Perfetto. Allora ribadisco che trovate sulle note dell'episodio qualsiasi riferimento inerente al gioco, soprattutto allo studio e ovviamente anche alla posizione su Greenlight, quindi penso che avremo modo, insomma, di portare fortuna anche a questo progetto, del quale probabilmente torneremo poi a parlare anche in seguito. Giuseppe, stavi dicendo, scusa? Sì, dico infatti che di cui non mancheremo di notificarvi di volta in volta i vari aggiornamenti aggiornamenti man mano che Ruggero ce li comunicherà. Sì, lo adottiamo come progetto, esatto. Ogni tanto su con DVL daremo aggiornamenti relativi, esatto, allo sviluppo di questo gioco, e poi magari con Ruggero torneremo ovviamente a parlarne più in là, quando saremo molto molto molto più a ridosso dell'uscita del gioco, per andare a completare quelle cose che ancora oggi per diverse ragioni ovviamente non possiamo ancora dire. Quindi ti ringrazio, ringraziamo Ruggero Aricò, che è lead designer di Wistful Studio, e ringraziamo anche Giuseppe, che è sempre attento a questi nuovi progetti. Andiamo avanti con il resto della trasmissione di VL. Ciao a tutti e due, alla prossima occasione. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a voi per lo spazio a nome di tutto il team, quindi insomma, e a presto. Ciao. Ciao ciao. Ritorniamo. Ah, sei tornato anche tu. Che, cioè, durante quest'oretta che hai fatto? Stavo facendo lo scarico. Lo scarico. Senza il titolo. Che... bel posto, scarico. È durato parecchio. Ma ci hai giocato a Fat Prince's Piece of Cake? Proprio fatto, proprio aspettato subito 40 minuti. Hai anche comprato i lingotti d'oro? Assolutamente no. No. Devono fallire questi, perché comprargli le cose. Devono no, assolutamente. Vabbè, ma ti è piaciuto? Non lo so, perché stavo scaricando. No, mi dispiace che te ne sei andato, perché non hai potuto sentire l'intervista. Cazzo, vabbè, poi mi scotto la puntata con comodo. Infatti. E allora a questo punto andiamo alla prossima rubrica, dove Cesare Giraldi e Simone Gusella ci racconteranno di un gioco che in realtà noi abbiamo già parlato, perché ce ne ha parlato già il buon Big Joe. Però insomma, non perché Big Joe non ne parla bene, ma sicuramente loro approfondiscono un po' meglio, anche perché lui ne ha parlato un po' così, diciamo, un po' sai, com'è, sai com'è lui, insomma, ne parla. E poi tra l'altro sappiamo insomma che è nata anche un'amicizia da questo punto di vista, perché faranno tanti piccoli bigini, esatto, che sapendo che stanno tutti nello stesso team, nello team di dietrologia, la gente non si parla fra di loro, però quando si parla poi scoprono: ah, ma anche tu giochi a Destiny? E allora, ah sì, ma sai, io sono 3 anni che gioco, che a, gioco Destiny. A Destiny. No, 3 anni no, per darsi. Infatti la discussione era: ma tu, perché poi giustamente vabbè, io lo dico dopo. Multigiocatore. Ed eccoci con la rubrica su multiplayer. Oggi parleremo di Destiny, questo gioco MMO per console, quindi già questa è un'eccezione. È stato pubblicizzato come uno sparatutto multiplayer senza dire, secondo me, più di tanto la parola MMO, proprio per non spaventare gli utenti console che non sono avvezzi a questo tipo di genere, anzi si potrebbero spaventare leggermente dall'affrontare un gioco così complesso. Qui alla mia destra ho Maki. Ciao a tutti. E partirei quasi quasi da te, perché mi hai visto giocare un pochino a Destiny, quindi ti chiederei a colpo d'occhio la prima impressione che hai avuto vedendolo. Vedendolo mi ha colpito, perché anch'io mi aspettavo un FPS tradizionale, semplice, e invece mi sono reso conto che era un gioco di ruolo, non di quelli troppo sofisticati, però comunque decisamente un gioco di ruolo. E cosa dire, la giocabilità mi ha sbalordito, fantastica, molto simile ad Halo in certi aspetti, con armi veramente interessanti, dei bellissimi nemici, ambientazioni stupende, missioni purtroppo non ho avuto moltissimo tempo per provarlo, però mi sono sembrate molto belle. C'erano semplicemente uccidere dei nemici oppure occupare delle zone, se non sbaglio. Poi Cesare, che l'ha giocato, mi potrà dire se dico boiate o se dico cose vere. E a me è piaciuto molto, per quel poco che l'ho giocato. E tu Cesare, cosa ne pensi? Guarda, io sono arrivato ormai sulla 30ina di ore di gioco. Ho finito la campagna molto in là nel mio walkthrough, diciamo, perché ho preferito svariare nelle varie modalità di gioco, perché ho sentito la necessità di fare un pochino di tutto. Quindi sono andato dal PvP, che si chiama Crogiolo, alle missioni assalto, che però si sbloccano molto in là nei livelli, perché sono, diciamo, una collezione di missioni particolari cooperative che si possono affrontare solo se si ha un personaggio di alto livello. In generale la progressione è esponenziale come durata, perché all'inizio non ci vorrà molto per salire di livello, come è anche normale, ma una volta arrivati intorno al 20° livello si ha difficoltà, perché i punti esperienza non contano più. Bisogna trovare delle armi che hanno un attributo che si chiama luce, e in base a quanta luce hanno queste armi ci permetteranno di raggiungere massimo il livello 32 con l'espansione, oppure 30/31, perché dipende dagli oggetti che si riescono a trovare, senza l'espansione. Espansione che io non ho, ho raggiunto il livello 25 e ho comprato il primo oggetto leggendario da poco. Che cosa dire? Diciamo che arrivato a un certo punto, dopo 30 ore di gioco, si inizia a sentire la fatica di portare avanti un gioco che non ha così tanti contenuti, e una volta esaurita la campagna principale, le cui missioni non sono neanche spettacolari in realtà, e la cui trama non è così avvincente e neanche prova ad esserlo secondo me, è giocato un po' in PvP e un pochino in PvE, quindi in cooperativa con altri, ci si rende conto che alla fine si rifanno sempre le stesse cose, quindi l'unica cosa che può portare avanti è la bellezza intrinseca del gameplay, che per fortuna c'è, e quindi credo che mi permetterà di continuarlo per almeno un'altra decina di ore abbondanti. E che cosa dire di altro? È un gioco sicuramente consigliato, è un gioco interessante, ed è un gioco che porta, appunto, come ho accennato nell'introduzione, una novità sostanziale per i giocatori console, ossia il fatto di essere un MMO, un MMO su console che funziona. E funziona con delle meccaniche anche interessanti ed innovative, perché è un MMO che diciamo contiene al suo interno varie modalità di gioco interessanti, e che sì, sono ripetitive, ma non arrivano ai picchi del grinding estremo che ci può essere in un World of Warcraft o simili. Quindi ne trattiamo nella rubrica multiplayer proprio per sottolinearne la natura estremamente legata alla cooperazione e la competizione con gli avversari. Entrambi questi tipi di modalità sono molto interessanti. Secondo me è interessante di più la cooperativa, perché gli assalti sono studiati in modo tale da essere molto divertenti se giocati con degli amici con cui si riesce a parlare, comunicare e gestire, diciamo, le situazioni, le ondate di nemici, mentre il coop è un pochino più anonimo perché è un pochino più anonimo perché alla lunga potrebbe stufare, non essendoci tante modalità e non essendo quindi ricco di contenuti. Tu hai visto quale modalità? La competitiva, mi pare, giusto Maki? Sì, la competitiva, in cui c'erano numerosi player da altri paesi. Devo dire che purtroppo non mi ha fatto impazzire, perché forse eri intorno al livello 20, questi qui invece... Sai che era il 18 ancora. Sì, comunque un livello molto più scarso rispetto agli altri, che con un colpo uccidevano tutti. Ma in realtà non è tanto così, cioè quando giochi nel competitivo c'è il fatto che i nemici non fanno più danni di te, semplicemente sono più bravi perché ci hanno giocato di più e possono avere delle abilità che riescono ad usare meglio perché conoscono meglio. In realtà, andando avanti con i livelli, non si acquisisce tanto delle armi più potenti quanto almeno nel competitivo, perché nella parte cooperativa ovviamente sì, ma nella parte competitiva non si acquisiscono armi più potenti ma delle abilità diverse che uno può imparare ad utilizzare sempre meglio. Quindi è una mia impressione che questa modalità a questi livelli così molto distanti risulta frustrante. Potrebbe risultare frustrante solo se incontri della gente che sa usare le sue abilità così bene che ti distrugge quasi sempre, ma sono dei casi molto rari. Normalmente nelle partite riesco sempre a farmi valere, tranne in pochi casi in cui incontri i classici mostri che sono anni luce più bravi di te e che quindi non puoi in nessun modo sconfiggere facilmente. E direi, dato che stiamo parlando di un gioco così incentrato sul multiplayer, che sarebbe anche interessante per gli ascoltatori che hanno Destiny, io ricordo che ho giocato la versione PS4, poter giocare insieme e quindi poter fare qualche assalto, qualche incursione, cose del genere. Quindi in descrizione, nelle note dell'episodio, metterò la mia gamer tag su PS4, perché così se vorrete mi potete aggiungere come amico e potremo giocare insieme. Ma anche no. Quindi per concludere direi che Destiny è un gioco in generale interessante, un gioco consigliato, con alcune pecche che bisogna considerare. Bisogna considerare prima di tutto che non ci si stia avvicinando a uno sparatutto normale con una parte di campagna e una parte di multiplayer, ma un MMO dove anche la storia fa parte del multiplayer alla fine. Quindi può essere che arrivi un altro guardiano ad aiutarti durante le missioni, oppure che tu sia abbandonato a te stesso a farle da solo, a seconda delle situazioni. Quindi un gioco che ha dei grandi pregi ma anche dei grandi difetti che ho appena citato. È un gioco che in generale consiglio di provare, ma magari non a prezzo pieno, e di aspettare, e quindi vi consiglio di aspettare magari un paio di mesi per trovarlo sulla trentina di euro, che secondo me è il prezzo giusto. Machi, vuoi dire qualcosa per concludere? Solo una domanda che è forse un po' difficile: se fosse stato un FPS standard, tradizionale e non di ruolo, forse sarebbe stato migliore, più coinvolgente, meno noioso alla lunga? Con questi contenuti no. Avendolo strutturato in questo modo, con una parte RPG ti spinge ad andare avanti per più ore, ma allo stesso tempo ti spinge a ripetere le cose di più. Quindi se avessero cambiato totalmente la struttura, cioè, per dire, avrebbero ricreato un altro Halo con una differente ambientazione, differenti personaggi, differenti nemici, ma secondo me sarebbe stato veramente una brutta copia di Halo, perché è difficile creare un'ambientazione vincente come quella di Halo. Il capolavoro a livello di personaggio, a livello di ambientazione, a livello di storia, secondo me lo azzecchi una volta sola. È difficile che ti venga l'ispirazione dello stesso livello per una seconda volta con un gioco del tutto simile. Quindi recensione tua positiva, ma non potrebbe troppo essere migliore. Esattamente, sì, non ha soddisfatto le mie attese più alte, ma si lascia giocare con un discreto divertimento. Niente, direi che abbiamo concluso e a presto. Ciao ciao. Ringraziamo Cesare e soprattutto Simone, anzi no, ringraziamo Simone e soprattutto Cesare, perché Cesare poi l'ha giocato. Quello che volevo dirvi prima era il fatto che Cesare infatti ci ha detto: mettete nelle note dell'episodio anche la mia gamertag, quindi Sire Aragorn. Ma lasciamo chi legge, mi hanno fatto uno scherzo. Allora, era Sire Aragorn. Sire Aragorn 1940.000. No, com'era? Aspetta, insomma, che non ce lo ricordiamo. Vabbè, insomma, lo leggete nelle sarà Sire Aragorn 94, probabilmente. Poi, probabilmente sì, perché essendo Young Boy. E stavamo dicendo che c'è stato questo scambio di amicizie, insomma, di amore, perché praticamente Biggio, nella discussione interna, ma c'è anche tu, giochi a Destiny? Sì, io sono giù, che livello sei? Io sono che ne so, cacciatore livello 30, e Biggio dice: ah, io sono titano livello 31. Io sono stronzo livello 99. Certo, fuori livello, fuori scala proprio. Scala, non possono competere con me. Poi mi hanno chiesto l'amicizia anche a me sulla PS4. Non giochi, sai che noi non giocheremo mai. Assolutamente no. Tu che c'hai? Ce l'hai Destiny? No, Destiny non ce l'ho. C'è Destiny? No, però c'ho GTA, volendo. Ah, GTA. O PES, volendo possiamo. Perché abbiamo finito definitivamente, diciamolo, e anche disinstallato Dragon Age, ne parleremo poi prossimamente in una puntata su L'Occhio del Beholder. E a questo punto andiamo alla posta. Eh sì, leggiamoci queste due posticine che sono arrivate, queste due mail sono arrivate. Vabbè, lanciamo. E allora lanciamo. cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va. È uguale. Allora, ci scrive Edoardo da qualche parte, probabilmente sul sito, e ci dice: qual è il miglior modo per cominciare la settimana? Puntata molto interessante, bella pasciuta, non c'è che dire. Rimango ogni volta come estasiato dal fulgore formale di Marrone e dalla lucidità di Morgan, che è un'enciclopedia vivente di retro gaming. Do enfasi perché c'è bisogno. Segnalo che proprio pochi mesi fa Mucchi aveva dedicato uno speciale alle case di sviluppo tricolori su PS Magazine ufficiale numero 13. Non so chi sia Mucchi, però forse è per questo che è nata poi questa puntata, che tra la, sicuramente stiamo parlando ovviamente di Spaghetti Games, cioè della puntata che abbiamo fatto proposta a Luigi Marrone sulle software house storiche italiane, che è venuta una puntata bella pascia. Quelle tricolori, le software house tricolori. Ah, un po' di meno dello specialone che siamo, forse la prossima puntata o la prossima puntata ancora sta per uscire, perché insomma, forse non esce, magari non esce. No, esce perché esce, però insomma diciamo che noi cerchiamo di rientrare nel nostro format temporale, però quando vediamo che andiamo un po' troppo oltre diventano speciali. Esatto. E li dilazioniamo nel tempo, perché insomma, comunque grazie. Grazie, ci vuole chiudere qualche altra cosa, ma non ce ne frega niente, dai. No, vabbè, ci lascia altri commenti. Poi c'è Exit Planet Dust, che sta sostenendo l'esame per entrare nel gruppo di dietrologia videoludica. Sì, e adesso sta cominciando appunto a fare diciamo gli inserti alle nostre puntate. Sì, sotto al centesimo commento sotto forma di commento, ma lui in realtà sta facendo approfondimenti, e poi dopo vengono messi insieme, esce un DLC a parte. E ci dice: uno tra i tanti messaggi che abbiamo estratto a sorte proprio attraverso tecniche molto all'avanguardia e veniristiche, abbiamo preso il primo messaggio, ma soprattutto esatto. Cioè, imparziali. Esatto. Abbiamo preso il primo messaggio che ci è capitato, che è proprio il primo che ha messo sul sito, e ci dice: Exit Planet Dust, penso che il fulcro del discorso sia la sostenibilità, sempre come puntata è quella delle Spaghetti Games. Suppongo di sì, suppongo di sì. Supponi, l'importante è supporre. Nella vita tutto tende ad acquisire una forma sostenibile o a soccombere. Io mi ritrovo piuttosto bene nella descrizione di Simone. No, questo è quello di Passione Muto. Ah, ecco, sì, giusto. Anche quella puntata interessante. Sì, ma solo pochi. No, la puntata è lui. Specifici, ben selezionati titoli. Ma mi rispecchio anche nell'approccio di Marco. Gioco poco, essenzialmente perché tendo a ottimizzare il tempo che ho a disposizione. In quei ritagli mi scimmio come un tempo, come da ragazzino. Ci sono periodi, tendenzialmente feste e malattie, in cui quei ritagli, poi quando uno è malato durante le feste è proprio Natale, proprio, in cui quei ritagli si allargano, altri in cui il gioco sparisce dalla mia vita perché sono costretto a riversare la mia attenzione al tempo e il tempo a disposizione totalmente altrove, lavoro, famiglia, eccetera. E quindi sì, praticamente. Tu fai come fanno quelli su Steam. Tu metti al pizzo intanto i titoli, poi dopo quando è te li giochi. Te li prendi a 2 euro, 2,50 euro. Però ricordate sempre che la malattia è una carta bonus. Se tu te la giochi durante le feste, ti sei sprecata la carta bonus. Esatto. Cioè, quindi. Va bene. Ringraziamo Exploanet. Dillo tu che viene meglio. È polvere dei pianeti. Esatto. Ex, poi. Che erano pianeti e sono diventati polvere. Diciamo che non ci sono i Geronto Gamers per questa puntata, ma ci saranno i Geronto Gamers nelle prossime puntate. Torneranno e tornerà anche un personaggio che oramai vuole essere inserito a tutti i costi. E siccome che a vostro scapito, ovviamente. E siccome che dorme col produttore, non si può fare niente. Questa è una schifezza. È un po' Boris questa cosa. Esatto, questo è proprio il mal costume del cinema italiano. Con italiano soprattutto. Benissimo, allora ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. È una domanda? No. Sì, ciao. Potrebbe anche essere una domanda, in effetti. Perfetto. Ci sentiamo alla prossima puntata? Lasciamo così, sospeso. Alla prossima, forse.